Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanti prodotti e marchi vengono citati nelle conversazioni su blog, forum e social network? Si tratta di pubblicità occulta? Spesso, molto più spesso di quanto si creda, la risposta è sì. Tanto che ora negli Stati Uniti sono corsi ai ripari. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torniamo a parlare di marketing e passaparola. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di quella che tutti chiamano la guerra del caffè e per il focus sui trend di Econowledge, quando il sapere verde fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità di questa settimana. Kindle esce dagli Stati Uniti. Il lettore di libri elettronici prodotto da Amazon sarà presto acquistabile in oltre 100 nazioni del mondo, Italia compresa. La versione internazionale di Kindle, che consente di leggere libri, giornali e riviste in formato digitale, si può già ordinare sul sito di Amazon. Le consegne inizieranno il 19 ottobre. La principale rivista femminile tedesca, Brigitte, mette al bando le supermodelle super magre e si impegna a sostituirle con donne comuni scelte tra il pubblico e nelle proprie redazioni. «Facciamo un giornale per le donne, così come sono, non come altri vorrebbero che fossero», hanno fatto sapere dalla rivista. Torna protagonista il design per le vie di Milano. Dal 22 al 25 ottobre prenderà vita Design in the City, percorso che coinvolgerà oltre 60 showroom del settore. Tra iniziative culturali e attività di intrattenimento, i visitatori potranno anche partecipare al concorso «Descrivi l'oggetto dei tuoi sogni», sarà progettato e realizzato. Arriva la cravatta in versione iPod. L'accessorio firmato dall'azienda londinese Thomas Pink nasconde sul retro una taschina ideata per contenere il lettore MP3 e i suoi fili. Così sistemato, l'iPod lascia le mani libere e non sforma la tasca della giacca. Colpa dei blog e della crisi della pubblicità. La Condé Nast ha deciso di chiudere Gourmet, la leggendaria rivista di cucina che dal 1940 era stata non solo una bibbia di ricette per i cuochi, ma anche un foro di cultura gastronomica, letteratura, viaggi e politica. Una custodia per notebook da portare sotto braccio che riproduce la pagina di un giornale. Una pochette che sembra lo stesso giornale ripiegato. Sono le borse antifurto dei designer spagnoli di Mite Mite, laboratorio di oggetti non indispensabili. La borsa della spesa. Alt alla pubblicità occulta su blog e social network, la Federal Trade Commission, l'agenzia che si occupa di salvaguardare le regole del commercio negli Stati Uniti, ha imposto trasparenza. Web e pubblicità occulta, un problema noto da tempo che regala ogni anno nuovi scandali, per lo più smascherati dalla rete stessa. Il più famoso risale al 2006. Jim e Laura viaggiano con un camper in lungo e in largo per gli Stati Uniti, raccontando l'avventura quotidiana sul loro blog, dove non mancano mai di elogiare la catena di supermercati Walmart. Prezzi bassi e parcheggi comodi, dove potersi fermare a dormire. Peccato che poi si scoprì che i conti del viaggio li pagava proprio il colosso della grande distribuzione. I falsi fan di prodotti e marchi, secondo le associazioni dei consumatori, sono molti. Sovvenzionati dalle aziende, lanciano il sasso nelle conversazioni su blog, forum e social network e, grazie alla potenza che solo i nuovi media sanno avere, la chiacchierata diventa vero e proprio spot. In gergo si chiama buzz marketing o word of mouth marketing. È il marketing del passaparola. Negli Stati Uniti è diffusissimo, tanto che ora la Federal Trade Commission, l'agenzia che si occupa di salvaguardare le regole del commercio, ha deciso un giro di vite. Con un documento di 81 pagine ha imposto la regola della trasparenza. Su blog, Twitter, Facebook e simili, la pubblicità si può fare, ma lo si deve dire, al pari del famoso messaggio pubblicitario che viene segnalato in TV. Pena, multe fino a $11.000. Nella blogosfera, come sempre insofferente ai tentativi di regolamentazione, si è scatenato il dibattito. Molti blogger criticano la decisione come inapplicabile e sbagliata. Parole di apprezzamento sono arrivate invece dalla Word of Mouth Marketing Association, nata 4 anni fa, raggruppa un centinaio di agenzie pubblicitarie che organizzano i passaparola per i loro clienti, tra i quali figurano Coca-Cola, Ralph Lauren, Kellogg's, General Motors. Ha un codice etico con una regola principe: bisogna agire alla luce del sole. Non si può fare altrimenti, perché la rete si regola da sola. Anche in Italia inizia a farlo, ci dice Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano, autore del libro Open Marketing, strategie e strumenti di marketing multicanale. Soprattutto sulla rete vi sono maggiori possibilità di fare delle verifiche e di stanare coloro che si comportano in modo non trasparente. Anche il caso citato con riferimento alla grande catena Walmart, che ha dato luogo al procedimento della Federal Trade Commission, è un caso che è stato scoperto dai blogger e dal mondo della rete. In altre parole, c'è un forte autocontrollo e codice etico interno. Di fatto cominciano a comparire sul web dei codici di autocondotta, che sono dei principi valoriali che il mondo della rete tende a condividere, anche con riferimento a quelle che sono le cosiddette valutazioni tecniche dei prodotti, che possono sottintendere un forte impatto sui comportamenti d'acquisto degli individui. Mocca o macchinetta? Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Parliamo della guerra del caffè. Attorno al caffè da anni si combatte una battaglia commerciale a suon di milioni di euro e di strategie di marketing globali. Stiamo in Italia. Il e Lavazza hanno ormai occupato le insegne del solito Bar Mario o Bar Roma con il loro brand, in genere perpendicolare all'entrata del bar in modo che si veda bene. Gli interni dei locali sono cambiati, diciamo che c'è stato un generale upgrading, anche se rimangono incerti i contorni del format. Lo stesso avviene all'estero, dove si distingue Segafredo e i suoi colori sgargianti. In Gran Bretagna poi 3 insegne a matrice commerciale italiana controllano il 70% del mercato. Il leader globale Starbucks invece comincia a sentire il malessere della crescita a tutti i costi e all'inizio dell'anno ha cominciato a chiudere decine di locali. Ma la battaglia del caffè continua anche nelle case, dove la stessa battaglia avviene per piazzare le macchinette per farsi un buon caffè, soprattutto il mattino. I grandi marchi del caffè si sono apparentati con i leader dei piccoli elettrodomestici, i depositari delle tecnologie più adatte. Nestlé con Nespresso però svetta nella fascia alta. Adesso i grandi marchi del nostro amato caffè si stanno espandendo in altre direzioni. Prendiamo il caso di Illy. Dopo aver acquisito il cioccolato Domori, che certamente si accompagna al caffè, ha acquisito una piccola cantina di Brunello di Montalcino, Mastroianni. È una diversificazione verso il buon gusto e il ben vivere, meglio il ben bere, che fa tanto made in Italy. Essere e avere. Seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Quanta CO2 produciamo compiendo una determinata azione? Quanta ne emette il ciclo di produzione di un determinato prodotto? Quanta energia consumiamo per le nostre abitudini quotidiane e come possiamo produrla in modo alternativo? Tutte informazioni queste, fino a poco tempo fa, a noi assolutamente sconosciute, ora accessibili a tutte grazie ad una serie di applicazioni, prodotti e servizi che fanno della sostenibilità, dell'attenzione all'ambiente e a chi lo abita un sapere condiviso, un sapere che ci sta trasformando in consumatori sempre più consapevoli. Questo è il tema della puntata di oggi, che abbiamo sintetizzato in Eco Knowledge, Eco Conoscenza, ad indicare tutto quanto sta concorrendo alla creazione di un vero e proprio sapere verde. Patrizia. Sì, intanto internet e il web 2.0, cioè i contenuti generati dagli utenti, diciamo subito che sono le condizioni senza le quali questa eco-knowledge, appunto i nuovi eco-saperi e la sensibilità ambientale che ne deriva, non avrebbero potuto svilupparsi così rapidamente e diffusamente. Quindi abbiamo più dati, abbiamo più conoscenze disponibili e consultabili sempre. Ma non è tutto, perché grazie all'infografica, cioè al linguaggio grafico capace di rappresentare e spiegare visivamente con grande immediatezza queste informazioni, questo sapere eco è diventato più friendly, più comprensibile e più fruibile in maniera agile. Un esempio molto bello che si trova online riguarda i consumi d'acqua per la produzione del cibo. Un designer tedesco, si chiama Tim Kekeritz, ha creato un poster chiamato Virtual Water e visualizza proprio i consumi d'acqua di ogni singolo paese su dati UNESCO e le quantità utilizzate per produrre i cibi che mangiamo tutti i giorni. Allora si vede un pollo, molte gocce d'acqua e il numero 1170. Poi si vede una mucca, moltissime gocce d'acqua, il numero 4500. Poi una mela, qualche goccia e 70. Sono i litri d'acqua usati per produrre 300 grammi di carne bovina, un petto di quel pollo o quel frutto. Quindi noi in un click e in un secondo abbiamo dei dati incredibili, letteralmente, sulla, diciamo, dissipazione di questa risorsa, l'acqua, usata soprattutto per produrre carne. Sappiamo che è risorsa tra le più preziose per la vita del pianeta e, ahimè, secondo alcuni, oggetto anche di future guerre, come già preconizzava Vandana Shiva qualche anno fa. Ancora, su Organic Linker, portale britannico, possiamo calcolare immediatamente quanta anidride carbonica è stata generata appunto per il trasporto dei prodotti che abbiamo comprato o intendiamo comprare in funzione del mezzo utilizzato. Quindi un qualsiasi oggetto che arriva da un punto X del mondo, in un secondo sappiamo quanto impatto ambientale ha. Dal punto di vista delle nuove ecoinformazioni che il consumatore vuole avere e in tempo reale, ci sono soprattutto però i consumi energetici o, al contrario, il potenziale energetico delle case. E anche qui sono già moltissimi servizi che soddisfano questo bisogno. Power Meter, che è un software di Google, si trova in rete per il monitoraggio online dell'energia elettrica consumata. Ancora, Roof Ray, un'applicazione web molto interessante che fornisce a chi sta per comprare casa la possibilità di calcolare il potenziale di energia solare della costruzione. Quindi informazioni che spesso erano, quando c'erano, soltanto in mano al personale tecnico, adesso diventano disponibili e utilissime in quanto, come in questo caso, variabili molto influenti sul valore degli immobili in un mercato immobiliare che sta peraltro molto cambiando in questa direzione. Quindi nuovi saperi che, adeguatamente sedimentati, possono riorientare le scelte di consumo e cambiare proprio i comportamenti quotidiani. Prima l'ecologico era una nicchia, ora un fattore competitivo in quella che ormai tutti definiscono la green economy. Questa rivoluzione verde, che io preferisco in qualche modo chiamare evoluzione verde, si riflette anche nel mondo del lavoro, dove si moltiplicano le professionalità ecologiche. Li chiamano green jobs, carriere lavorative tra fotovoltaico, eolico, mobilità sostenibile ed efficienza energetica. Da qualche anno negli Stati Uniti esiste la qualifica di riciclatore, colui che recupera i vari rifiuti, soprattutto quelli prodotti dalle aziende, per poi destinarli alle industrie che li riutilizzano. Secondo l'Agenzia del Lavoro delle Nazioni Unite, negli States sarebbero almeno 1 milione le persone impiegate in questo campo. In Europa, secondo il WWF, ci sono circa 3,5 milioni di impieghi nell'ambito delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Entro il 2010, gli ecolavori nel vecchio continente potrebbero creare nuove occupazioni per oltre 1,5 milioni di persone, 2,5 milioni nel 2020. Da noi, però, il settore fatica a decollare. Sono soltanto 2,500 gli italiani che si occupano di eolico, 1,700 quelli che lavorano nel fotovoltaico e 3,000 nel solare termico. Cifre molto lontane da quelle dei colleghi tedeschi e spagnoli. Patrizia, anche il mondo dei consumi si è mosso in questo senso. Quanti nuovi prodotti prodotti ha offerto, offre il mercato o quanti ne ha modificati di quelli vecchi per andare incontro alle istanze ambientaliste? Sono tantissimi e sono oggetti con una valenza informativo-educativa sulle istanze ambientali che ne determina il valore di consumo anche in termini di distinzione. Parliamo naturalmente soprattutto ancora in questo momento di segmenti avanzati come target di questi prodotti. Tra ecodesign e design socialmente responsabile, per esempio il tappeto Global Warming contro il riscaldamento globale, ideato da 5 giovani designer messicani. È di lana blu e al centro ha un piccolo orso polare su un iceberg bianco che naturalmente si sta sciogliendo. Quindi è un tappeto messaggio che invita a riflettere sulle nostre responsabilità, sul cambiamento climatico, sul conseguente rischio di estinzione degli orsi bianchi. Stesso tema, una t-shirt da un'idea di Chiara Pelan con stampe di alberi stilizzati che si scolorano se la maglietta viene lavata a 40 gradi o più, mentre rimangono intatti e colorati se la si lava a freddo o fino a 30 gradi. Quindi vicino agli alberi su questa maglietta c'è una scritta didascalica: Hot wash and the tree will perish. I lavaggi ad alte temperature faranno morire l'albero. Hand wash to preserve the tree. Lava a mano e salva gli alberi. Quindi piccoli messaggi incorporati in questi oggetti quotidiani e familiari per far pensare, diciamo, l'impensato, cioè l'impatto di ogni nostro gesto che fino a ieri pensavamo neutro rispetto al pianeta. La casa è il luogo a cui sono destinati, per esempio, i numerosissimi apparecchi che sono display, interruttori, contatori wifi, ma anche complementi d'arredo, lampade, eccetera, progettati per mostrare in modi diversi i consumi che facciamo, per esempio con quella dissipazione superflua dovuta agli standby, e in certi casi sono meccanismi che spengono per noi i dispositivi automaticamente lasciati accesi inutilmente. C'è un interessante strumento per il controllo dell'acqua usata sotto la doccia. Alexander Tonneau ha realizzato un soffione che ogni 10 litri d'acqua ci segnala con uno speciale getto lo scorrere dei decalitri. Qui si guadagna molto in coscienza ambientale, forse si perde in benessere e relax. E poi eco knowledge, eco conoscenze tradotte in oggetti e giocattoli che attraverso appunto una tonalità ludica aiutano però l'apprendimento di questi temi in chiave educativa per i bambini, noti consumatori in crescita. Power Hog è un bellissimo salvadanaio maialino che blocca e libera la corrente elettrica per insegnare che l'energia ha un costo. La coda è collegata alla presa di corrente, sul muso, sul naso viene inserita la spina di console, iPod o un elettrodomestico che si intende utilizzare. Per accendere il maialino, quindi avere energia, bisogna inserire una moneta. Esaurito il credito, lampeggia un dollaro disegnato, il maialino si spegne, quindi il bambino capisce che sta giocando e quell'energia che sta usando costa. Ancora pupazzi della serie Eatbeads, nati per insegnare ai bambini i gesti quotidiani della sensibilità, tenere pulita la terra, eccetera, sono accompagnati da una guida, una vera guida, che propone 10 semplici consigli per salvare il pianeta. Ovviamente sono ecocompatibili, fatti a mano in cotone egiziano organico al 100%. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Seoul su Eco Knowledge e dintorni? Ce lo racconta come sempre una delle nostre urban watcher di Memi, Alessia Zampano. Buon pomeriggio, Alessia. Grazie, buon pomeriggio a tutti. La designer coreana Mina Kwang ha realizzato per il marchio Yanko Design delle particolari tazze in ecoceramica. Particolari non solo nella scelta del materiale, appunto, ecologico, ma perché inducono chi le usa a riflettere sul problema del surriscaldamento globale. In che modo? Innanzitutto, all'interno di ogni tazza sono stampati dei messaggi che sensibilizzano sugli effetti devastanti del cambiamento climatico, dell'inquinamento e dello sfruttamento incontrollato del nostro ecosistema. Ma soprattutto sul fondo delle tazze fa capolino, è fissata una silhouette, una sorta di piccolo testimonial, sempre in ceramica, che verrà inondato letteralmente e metaforicamente dal liquido che introduciamo. Le piccole figurine rappresentano cose diverse, ci sono degli animali che rischiano l'estinzione o alberelli che ci fanno fanno ricordare la foresta amazzonica che si assottiglia, o edifici o monumenti famosi come la Statua della Libertà che rischiano di essere sommersi dall'innalzamento del livello dei mari. Per cui il gesto del bere li salverà da una fine ingloriosa. La traduzione italiana del nome di questo progetto infatti suona più o meno così: un solo grado centigrado fa la differenza. Mi rendo conto che detta così può quasi sembrare un'operazione di terrorismo psicologico, il senso però è trasformare un piccolo gesto quotidiano come prendere un caffè o un cappuccino in un'occasione di riflessione e di presa di coscienza, minime ma determinanti per il nostro futuro. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, sapere verde inteso anche come arma per smascherare le eventuali furbizie del mercato, possiamo fare questa sottolineatura: tanti prodotti oggi, dobbiamo dirlo, si travestono di verde, per così dire, per avere più appeal sul consumatore. Il sapere verde in questo caso serve a renderci consapevoli, è così? Diciamo che il concept green è molto abusato in comunicazione, nelle iniziative di marketing, e diciamo la sostanza che c'è dietro non sempre corrisponde a quello che viene comunicato. In termini di cultura verde non possiamo concludere senza ricordare il precursore italiano dell'ecosapere, che è LifeGate, questa piattaforma portale di riferimento per il vivere sostenibile, e il progetto Impatto Zero, che sono moltissimi anni ormai che offre anche la possibilità al singolo di, descrivendo il suo stile di vita, quindi mezzi di trasporto usati, cibo consumato, bollette di casa, vacanze eccetera, compensare l'impatto individuale misurando appunto le emissioni di CO2 e riforestando in varie zone del pianeta. Quindi, come dicono sul sito, è un'applicazione volontaria del protocollo di Kyoto. Finisce qui anche questa nuova puntata di Essere Avere. L'appuntamento come sempre per domenica prossima dopo il GR delle 13. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.